los jueves a las 17, La Esquina del Sur, Dulce Frecuencia de Radio Onda Rosa. 17.02 minuti, quasi puntuali, eh? Andiamo migliorando. Allora, ben trovati. Ciao Victor, ciao Mariano. Come va, Marta? Come va a te? Tanti auguri, che no, è solo la festa mia. Ho passato, ma non si fanno prima, quindi si fanno dopo. È vero, stiamo lì, diciamo, nel margine. Sei nella settimana di compleanno. Grazie, ma comunque dai, gli anni passano. Eh sì. Succede, per fortuna. Ancora succede tutti gli anni questo di dai. No, di fare gli auguri. Quindi grazie a tutti voi. Victor... Oggi li ampliamo pure, li mandiamo a infatti Pierino sì. Di Attica. Grande. Infatti sì, tanti dicevamo nati tra fine aprile e metà maggio, quindi tanti tori. Sì, cosa che rende il mondo un pochino più difficile, però non c'entra niente questo con la trasmissione. Ma non vi preoccupate che ci siamo noi acquari che vi teniamo a bada. Di questo mondo. Come va, Victor? Mari Peñi, Mari Lamien, sono veramente contento di stare qua all'aria, all'aperto, in questa Roma bella che dai, col sole è più carina. Mo tu l'avevi vista proprio tu sei arrivato col tempaccio, con l'inizio dell'autunno. Dell'estate scorso. No, sì, è vero, certo. Che stavi a fare in vacanza. No, lavorare come skipper, che non è uguale. Ah no, poi lavorare come skipper, arrivare a Roma, boom, è una bella pezza. Va bene, però sì, indubbiamente poi ci facciamo questi saluti tutti allegri, poi entriamo in questi microfoni e si ingrigisce tutto, perché è inutile qua dire che siamo tranquilli con quello che abbiamo visto che sta passando in Palestina, perché per me quella è la Palestina, insomma, è inutile qui stare a cincischiare quello che succede a Gerusalemme, anche perché esiste uno Stato di Israele, come se esiste e come si fa vedere. E quindi no, non stiamo bene, perché sappiamo che sabato andremo a fare quel poco che possiamo fare, manifestare, ricordare, insomma, qual è la storia di quel territorio e quale tipo di politica economica e sporca ha creato la situazione presente, che non è una guerra ma che è un'aggressione, è uno Stato senza esercito, senza forze di sicurezza, come vengono dette, se non insomma qualcuno, ecco, ma insomma sfido chiunque a dire che la Palestina c'ha un'armata e un esercito, ecco, un'organizzazione. Sicuramente fa male al cuore vedere quello che è successo, fa male al cuore vedere i civili disperati e di corsa, fa male anche quando si vedono delle immagini che passano i razzi e io non sapevo più se era Cali o Gerusalemme, perché significa che non sono dittature, sono democrazie, sono stati e si normalizza, chiaramente sto parlando della Colombia, e si normalizza una violenza, si normalizza un silenzio internazionale, si normalizza l'opportunismo di organizzazioni internazionali che ormai stanno col culo scoperto, lo dobbiamo dire, esistono perché si possa dire che esistono, ma poi non servono a niente, e questo vale anche sicuramente per la Palestina. Esiste anche a casa nostra un porcile con dentro persone che addirittura battevano le mani perché è giusto, insomma, Israele è stata aggredita da destra a sinistra. Ma cose poche volte vista, no? Forse da voi poche volte insieme. Vista. Ma tutti. Perché chi era di sinistra là? Io ormai c'ho più la televisione, ma perché me voglio informare? No, però guarda, ma se non si capiva più, dove mi mette chi e come? Oltre tutti sinistra, a testa in giù sicuramente, quella no, era l'unica cosa. No, quello a prescindere, però dico oltre sinistra o non sinistra, con un briciolo di dignità almeno, no? Non c'era nessuno là. Ma insomma, mi pare che la dignità l'abbiamo persa quando qui anche, insomma, c'era gente in piazza a festeggiare e nessuno gli diceva scusate, state festeggiando massacri di bambini, insomma. Sì, perché lo sappiamo che con... Non avete una memoria? Non avete una vergogna? Non avete con una il passare degli anni, vedevo poco fa un'intervista, credo del 2015, a Monio Vadia, e lui spiegava molto bene la macchinaria di propaganda politica che è riuscita a stabilire. Non è proprio. Però spiegava molto bene questa cosa, dico, che parliamo, come cioè si trovano persone, si incontrano persone dopo ad applaudire uno Stato segregazionista, uno Stato che provoca o porta avanti un apartheid, un genocidio direi, perché veramente per tutto ciò che fa lo Stato di Israele sembra disposto a far sparire al popolo palestinese. E comunque spiegava bene Monio Vadia come uno Stato di questo tipo, con una macchinaria di propaganda forse mai vista, riesce sempre da carnefice a farsi trovare o a presentarsi come vittima, sempre. Lui spiegava questa cosa, no? Sì, cioè diciamo pure che tu devi avere un'udienza che ti applaude quando lo dice, perché se quando tu lo dici la gente si alza e se ne va, tu rimani l'unico imbecille a dirlo. E quindi voglio dire, no? Ecco, ci vuole anche un pubblico, appunto, che dicevamo. E a volte così dico, restiamo tutti, no? Come imbecilli a dire delle cose che nessuno vuole ascoltare. Dico difficile per questo, perché uno veramente deve lottare, sembra, permanentemente contro una realtà. Non è una realtà, è una finzione creata, fatta diventare o proposta come realtà, e questo è il caso della situazione palestinese, che nuovamente si trova in una situazione di violenza, direi superiore per quanto ci chiama l'attenzione l'immagine, ma che è usuale, che è quotidiana, purtroppo, no? Certo, meno male che siamo qua in questo falso benessere, però il mondo intorno a noi è convulsionato per questo, sì, questo stati fascisti o militari o troppo capitalisti o osservati, non so, una cosa che è la varietà di organizzazioni. E dopo le categorie ci confondono, perché certo nel caso sia dell'Israele come della Colombia si parla di democrazie, no? E che alla fine... Ma la di Israele è la più grande democrazia del Medio Oriente. Sì, non che so in che riesce casi ancora a sparare queste baggianate. Ma svuota di senso la parola democrazia, cioè gli esempi di Colombia e Israele. Oppure forse la democrazia ha un senso che prima noi non pensavamo che avesse. Quando dicono che per la sicurezza della democrazia fanno questa occupazione militare, quello è naturale dire così, esatto, in questo momento, esatto. E non si rifiuta, non si dice basta, per esempio. Sì, infatti. Basta, però se c'è gente che no, come la canzone che arriverà dopo. Bravo, mi sei piaciuto. Grande, ci arriveremo. Sì, quindi insomma dovevamo dire qualcosa perché stavamo tutti a cuore stretto. Io so che tra l'altro c'è un compagno che sta girando una sua intervista, Bilal, che noi abbiamo sentito da questa radio tante volte. Ci sono i contributi insomma sul sito della radio, di chi sicuramente meglio di me sa leggere, approfondire questa la questione di insomma quello che sta succedendo in questi giorni, che comunque insomma credo che poi anche chi non se ne intende lo possa chiamare il continuo genocidio del popolo palestinese, perché non credo si possa, quando si bombardano gli unici 3 grattacieli rimasti a Gaza con la voglia di tirarli giù sapendo che dentro ci abitano delle famiglie, è perché si vuole compiere un genocidio là dove a Gaza, mentre vengono arrestati, sorridono. Ecco, e io finisco e dall'altra parte si non ho più niente no, da dire, e dall'altra parte si festeggiano i morti, no? Mentre esatto, giustamente quando vengono detenuti i palestinesi sorridono, dall'altra parte purtroppo no, perché c'era un'altra trappola che io ritengo molto infame, che è questa di Israele, che è il pinkwashing. Quindi Israele è uno dei paesi che geograficamente chiaramente sta in una zona dove è difficile trovare dei grossi pride, e quindi invece Israele si colora di questa bandiera arcobaleno, che a noi ci fa schifo, non la bandiera arcobaleno, che la tenga in mano degli assassini di quella portata, che diventino la trappola di quelle comunità che casomai, appunto, casomai non sono mai entrate troppo in altro al conflitto, comunque il trappolone di far sembrare che Israele, nonostante uno stato religioso, poi te fa fire pride perché è un paese molto gay friendly, come si diceva una volta. Chiaramente sono cinica e cinico ironica, perché se no mi viene veramente qua ricomincio. Ma appunto quello e fa quindi, parte della macchina, esatto, di e quindi che succede? Che di botto Gerusalemme fa gli sconti alle coppie gay, alle coppie lesbiche, preparando questa bella marcia colorata che cammina sul sangue di gay, lesbiche, trans, palestinesi, persone non binarie, palestinesi che esistono, che però sembra che non esistano e che è veramente, io lo voglio ricordare perché insomma è una cosa che ci appartiene e che noi dobbiamo smentire, su cui dobbiamo veramente sputare con forza. Me segnalava un ascoltatore che c'è una bella intervista di Monio Vadia, io ve lo dico così per correttezza, non l'ho letta, ma io credo che anche Monio Vadia abbia avuto modo poi di, appunto, di seguire questa storia e di insomma, e di arrivare ormai a denunciare, insomma, credo che sia impossibile non farlo. E non farlo sia una scelta di schieramento veramente chiara. Un altro video molto interessante, parlando di queste cose che girano, così, tra virgolette, su internet, è Norman Finkelstein, scusate, Norman Finkelstein. Cercate, scienziato ebreo, credo ebreo statunitense, ma comunque in una conference, quando una ragazza, sì, con le lacrime di coccodrillo gli dice che si sentiva offesa. Lui poi era ebreo che parla in un'università e parla, appunto, della causa, sì, palestinese, rivendica la, sì, causa palestinese, imbocca questo gruppo in un momento di giovani, dice lui, ebrei, e gli chiede come non si vergogna. No? E si sentono offesi perché lui paragona ovviamente a tanti che stanno lì di fronte a lui con i nazisti, siano ebrei o no, chi lo sta ascoltando, e ma li paragona ai campi di concentramento. E quindi questa ragazza si mette a piangere. Norman Finkelstein veramente fa un intervento cazzutissimo, ed è interessante come dice che si vede costretto a tirare fuori la carta dell'olocausto, no? Sì, che lui non voleva usare, raccontando e appellando alla sua storia personale anche per giustificare e spiegare la sua posizione rispetto a quel conflitto, dove è chiaro chi è la vittima, è chiaro chi è il carnefice. Questo è così. Esatto. Certo, sicuramente realtà, poi negli Stati Uniti ci sono anche dei gruppi di adesso io non lo so, quindi non voglio, dei gruppi estremi ortodossi anche che sono per la causa palestinese contro il sionismo, che sono, sì, anche in Israele, dopodiché a me si apre un problema, che se poi tu vai a manifestare per la Palestina, intanto tu moglie sta chiusa a casa, gli ha rasato i capelli, gli ha fatto fare 12 figli, e io comunque, scusate, ma ho un problema, sì, quindi sì, direi, no, che rimaniamo sulla nostra. Io credo che no, cioè io mi sento una persona materialista, sì, no, atea, no, e credo, mi fanno paura questi stati, no, che cose mettono Dio nella propria costituzione, perché già vediamo che facciamo fatica a fare delle costituzioni umane, ci manca pure che ci mettiamo dentro Dio, è veramente qua. No, ma quei casi credo che ci permettono pensare come giustamente la causa palestinese deve andare avanti, e a prescindere da quello che dicano anche gli ortodossi ebrei, che possano essere d'accordo o no con il sionismo, ci troveremo d'accordo su quella cosa, punto e basta, ma la causa palestinese va a prescindere, cioè non è che un giustificativo, un argomento in più come per sostenerla. Esatto, no, no, infatti. Perché infatti lo dicono, no, semplicemente questo chiama l'attenzione a volte, no? Perché uno, una cosa ma che chiama si l'attenzione fuori, anche perché loro raccontano che fino a prima del 1948 lì vivevano insieme, vicine di casa, in pace, e addirittura si aiutavano come vicini di casa le famiglie palestinesi. Infatti va bene, rischiamo di cadere nel retorico, credo io, 17, sì, volevamo 14 fare minuti, però una riflessione, vabbè, ovviamente non ci sentivamo a sfogare di questo. Voglio fare un anticipo, comunque la Colombia sarà presente, e ovviamente il Cile pure, con novità sui detenuti politici, anarchici, sovversivi, e pure su i territori, no? Certo, certo, dobbiamo parlare tante cose. Infatti mi sono ricordato di una pintura di Giuseppe Pellizza da Volpedo, che è famosissima. Il quando, quarto stato. La prossima volta che tu guardi questo, pensa che magari la ragazza le deve dire al compagno: compagno, adesso devi portare la bimba. Bravo. Sì, siamo, sì, una musica. Mette una musica. Dai, allora cosa andiamo ad ascoltare? Rajamos fines al estilo de la calle, así que no vengas y me digas que me calles. Si vengo con este estilo es para que no te desmayes, y cuando vayas por la calle lo bailes. Dice Rajamos fines a la fashion, dice Rajamos fines al estilo. Fortuna c'è anche gente che no. Meno male. Ma davvero. Sì, la paura. Male. E mo che ci sentiamo invece? Sì, possiamo ascoltare Baja Vida. Che gruppo sono? Si chiama Baja Vida e suona adesso in Radio Onda Rossa. La canzone si chiama Balas por la Espalda. Per averti ascolti la voce di Mattia Catrileo. Balas por la Espalda, quindi proiettili alle spalle. Il territorio è algo importante per noi, per questo, perché donde uno nasce también tiene que morir. Eso del palmabuche è una ley. Nosotros tenemos que ser así, siempre lo hemos sido. Nosotros no podemos concebirnos como mapuche sin tener tierra, sin tener territorio. Y ese territorio tiene que ser recuperado en base a lo que es la autonomía. La autonomía y el control territorial van de la mano. Van de la mano, es la única forma de reconstruirnos como nación. Ok. ¿Qué pasa, Rafa Maquehue? Dale. ¡Fuimos! ¡Eso es! No piensan ni disparan las balas por la espalda. En el juzgado un delito menor, sus balas no nos pidieron perdón. El mapu sigue viviendo la cana sin percutar una sola bala. El mapu sigue viviendo la cana sin percutar una sola bala. Entonces dime quién disparó, quien defiende su tierra, o el Estado opresor, no, o el Estado opresor. ¡Arriba, Rafa Maquehue! Ellos no piensan, y por eso disparan. Ellos no piensan, y por eso disparan. Balas por la espalda que duele, golpean niños también. Todo lo los días la Mápulos lloró al ver que el Estado tiene el control. La Mápulos lloró al ver que el privado tiene el control. Soy Joan Florville, inmigrante haitiana, asesinada por la policía chilena. Soy Macarena Valdés y Camilo Catrillanca, asesinados por proteger la Pachamama. Soy Fabiola Campillay y Gustavo Gatica, mutilados injustificadamente por el Estado chileno. Dignidad al pueblo que lucha. Soy el grito combativo de un buey ya perdido. Cada lágrima mapuche que llora su suelo destruido, un suelo construido con conciencia y respeto, repleto de amor, de alegría, de leyendas y secretos. Pero una bala llega, una bala llena, llena de pena, pena que quema, que me condena. Pueblo libre a vivir con cadena frena. Que esta tierra sigue siendo de lo nuestro, y no lo digo yo, lo dicen sus sudor y sus ancestros. Ellos no piensan, no piensan, no piensan, no. Y por eso disparan, disparan. Ellos no piensan, no piensan, no piensan, no. Y por eso disparan, disparan. Balas por la espalda que duele. Golpean niños también las mujeres. Balas por la espalda que duele. Golpean niños también las mujeres, no. Ellos podrán tener las armas, pero no tienen la fuerza. Ellos podrán tener las armas, pero no tienen la fuerza. Ellos podrán tener las armas, pero no tienen la fuerza. Ellos podrán tener las armas, pero no tienen la fuerza. Hola, Rapa Makewe. Insomma, tutte parole assolutamente di senso. Insomma, io spero che qualcuno riesca a capire anche questi testi, perché non è che sono proprio casuali. Figa questa canzone, come si chiama? Certo. Quella si chiama Balas por la espalda, della banda Baja Vida, del disco El Holocausto del Progreso. Grande Victor. Le parole di Mattia Scardellileo spesso, no, escono in tante canzoni, perché Mattias comunque è stato un caso. Vogliamo ricordare così brevemente, certo, la sua storia. Poi, se volete, sul nostro blog mapucehit.wordpress.com, tra i video c'è un bellissimo video in cui parla anche la mamma di Mattias. Ormai sono passati tanti anni dall'uccisione di Mattias, vero? Un bel po'. Certo, certo. E la cosa che abbiamo trasmesso, come i compagni trasportavano il corpo del compagno, perché l'hanno ucciso per la alle spalle per sparato alle spalle, è una cosa importante, penso, come Rafael Nahuel del resto. Certo. Sparato alle spalle, certo, come Camilo Catrillanca, sparato alle spalle, no? Mi sembra, certo, anche come una lunga lista di sparate alle spalle. Ecco, sì, eh? A tradimento si direbbe quasi in spagnolo. Beh, sì, sicuramente in un modo infame. Però ci abbiamo delle novità rispetto a, perché parleremo di quello che succede come sempre nei territori, rispetto ai detenuti, dicevamo, politici, sovversivi, anarchici, fino a alcuni giorni fa, e ancora si continuava con lo sciopero della fame, finalmente sospeso. Sì, hanno sospeso lo sciopero della fame. Adesso io mi sono un po' occupata di Colombia, quindi adesso mi rivolgo un po' a Victor, non so se c'è qualcosa che vogliamo aggiungere. Io credo che, come abbiamo visto fare anche a tanti prigionieri politici mapuche, si arriva a un certo punto in cui il proprio martirio deve avere un senso. L'esaurimento, certo. Il proprio martirio deve avere un senso, la propria, no? La propria pratica deve avere un suo perché. Si può mettere in gioco la propria vita per la causa, ma non si può sprecare, credo, sì, la credo propria che, vita credo per la si causa. Cerca di essere un martire, quindi non è quella, esatto, l'idea. Non è esattamente esattamente si porta avanti, dico, una lotta politica, e quindi si deve pensare così strategicamente. Comunque ci abbiamo, come sempre, sì, come sempre abbiamo l'informativo che appunto ci hanno detto che la settimana scorsa, sapevamo che era una settimana sicuramente particolare, e quindi non è uscito. Di cui appunto vi andiamo a leggere quella che sempre un po' è l'introduzione generale, il momento di analisi, e in questa volta si intitola Libertà a tutte e tutte le prigionieri politici, perché parla appunto di Colombia, non posso, non può anche i compagni e le compagne del Cile non rendersi conto di cosa sta succedendo lì vicino, prenderne atto e sentirsi uniti in questa rivolta. Durante questa settimana abbiamo visto con tristezza e rabbia come il mondo osserva impavido il massacro di tanti e tante fratelli nella regione colombiana, dietro una costante offensiva di guerra da parte dello Stato colombiano. Il popolo è sceso in strada in rifiuto alle misure e leggi borghesi che cercano solo di arricchire sempre gli stessi e mantenere nella miseria con la quale hanno fatto così, hanno riempito le loro tasche. La gente non ce la fa più, con ancora più paura e fame che al virus, quindi hanno più paura e fame che al virus, sono andati per le strade ottenendo come risposta dal governo di turno la repressione più nefasta e maledetta che possa esistere, incluso con le sue strategie per ristabilire l'ordine, la pace, camion da guerra, lanciamissili e armamento bellico. Niente di nuovo sotto il sole di Abiy Ayala. Senza dubbio non possiamo non abbracciare la luce dei nostri fratelli e sorelle, e inoltre appoggiamo la complicità del resto della luce, lotte e resistenze che si stanno svolgendo da decenni in questo continente. Solidarizziamo con amorazione con la famiglia e amici di chi è sceso in piazza e nelle strade e non sono tornati, e anche con chi si trova imprigionato per lottare nella regione colombiana, in questo territorio sequestrato dallo Stato del Cile, e con i prigionieri e prigioniere del resto del mondo. Comprendiamo che chi difende la cricca che difende il capitale in un territorio scatena una persecuzione sfacciata contro chiunque si alzi o rinneghi la forma miserabile in cui loro pretendono chiamare la vita. Abbracciamo ogni iniziativa che vuole smontare il patto dello Stato e il capitale, e ripudiamo la caccia alle streghe, il mettere le taglie messe sulla testa di compagni e chiamati alla delazione che fomentano con la loro pubblicità e con cui cercano di dominare Abiy Ayala in ogni rincone, in ogni angolo del mondo. Crediamo che sia fondamentale rinforzare la rete di appoggio solidale, tanto di chi sta nelle strade come di chi si trova sequestrato nelle carceri, così tutte le azioni che visibilizzino e sensibilizzino, e che la resistenza, l'amore con i quali i compagni stanno dando la loro pelle in questa instancabile battaglia per la libertà sia inoltre una nostra assunzione di responsabilità in questa guerra. Come coordinatora per l'oppreso politico del 18 di ottobre, appunto, e l'introduzione al bollettino. E, come sapete, insomma, noi ogni tanto andiamo un po' di corsa per la traduzione di questo bollettino, quindi abbiamo smesso di tradurvi specificatamente caso per caso, anche se poi vi daremo la possibilità di ascoltare il bollettino e di comunque usarlo, se volete, per questo tipo di informazione. Quello che noi volevamo oggi un po' portare alla luce sono casomai dei casi specifici che noi sapevamo essere forse i casi più pericolosi. Parlo del caso del Principato, in questo caso, dove appunto tre giovanissimissimissimi compagni che erano stati arrestati rischiavano delle pene detentive veramente dai 25 ai 29 anni, ma sebbene siano stati assolti da queste accuse, cioè quelle di aver incendiato, di aver effettivamente incendiato l'hotel Principato, e quindi gli avvocati popolari hanno veramente, con un grosso lavoro e faticoso, perché spesso è difficile proprio far entrare le proprie prove in questo tipo di tribunali, sono riusciti a far cadere il montaggio. Questo però non è bastato per l'assoluzione, perché se abbiamo capito da questi processi che l'arresto domiciliare diventa comunque una sanzione, tu vieni sanzionato solo per il fatto di aver manifestato, solo per il fatto di non essere omologato al sistema, no? Quindi se tu scendi in piazza, io almeno un anno di galera detentiva te lo faccio fare. La punizione totale, così come abbiamo visto che la richiesta invece delle misure cautelari sia diventata, no, un premio e non più un diritto, queste sono cose che dobbiamo tenere presenti, perché sono quei meccanismi giudiziari che oggi stanno in Cile, domani stanno in Messico e dopodomani, no, arrivano qui. Perché se diciamo che il Cile è il laboratorio del neoliberismo, dobbiamo capire qual è l'esperimento in atto per capire poi che succederà di questo prodotto. E quindi questi tre compagni sono stati comunque condannati a pene di 5 anni, insomma, 5 a 6 anni, da 5 e 6 anni, perché comunque sono stati abbastanza in maniera blanda accusati di aver comunque tirato delle molotov. Che ci siano le prove su questo rimane un dubbio. Io personalmente, insomma, e con questo voglio approfittare, insomma, per farvi capire un po' qual è proprio la linea politica della diciamo il timone politico di queste scie che lasciano questi processi giudiziari, ad esempio del caso di San Antonio Cordano, che è rimasto in carcere perché è condannato del tentato omicidio di un agente della polizia di investigazione. Io personalmente ho partecipato all'udienza dove questo poliziotto testimoniava ed era una cosa ridicola, no? È chiaro che non c'è, era palese che non, ma sia per le due macchine si erano scontrate e avevano dei bozzi in cui era palese che non c'era nessun tipo di, non c'era stato uno scontro tra, cioè le due macchine erano accidentate, ma era palese che è come se io col parafango vado a romperti lo specchietto, insomma, ecco. E quindi era, sì, impossibile. Sì, comunque riescono a montare questo agente della PDI. Era un giovane agente che ha fatto un pianto, ma un pianto che adesso lui si cura dallo psicologo, e poi però quando gli è stato chiesto che danni ha avuto, lui ha detto: no, ma io non sono neanche caduto per terra, ho fatto un passo indietro. Quindi evidentemente, no, era palese. Adesso io casomai sarò pure di parte, ma insomma, non è che mi sono vista il processo per caso, mi sono voluta veramente fare un'idea di quale fosse il livello. E Cordano si sta facendo 5 anni. Sì, no, sì, in un processo dove la principale vittima, no, come dici tu, ha detto: no, non mi sono fatto nemmeno male, ho fatto un passo indietro. Esatto, così come chiaramente dire che tu hai tirato una molotov, se non ci sono telecamere a far vedere che è un altro, nessuno è, comunque per loro non vuol dire che tu non l'abbia fatto. Cioè tu devi dimostrare la tua innocenza ormai e non deve essere dimostrata la tua colpevolezza. Si inverte il peso della prova. Così come abbiamo visto che si invertono tutte le altre misure, no? Quindi la misura cautelare è perché a gente che non è mai stata pericolosa nella vita si fa 15 mesi anche di detenzione preventiva. Per una questione disciplinare, lo dicevamo, per far capire come se ti beccano chiedendo per i tuoi diritti più basici a volte. Comunque, se ti vegano te ne farai sicuro un anno e mezzo, e attenti, guai, eh? Sì, la cosa che possiamo fare, il vincolo sarebbe che la polizia che ha lavorato nel Cile in questo momento della rivolta adesso ha stato in contatto sempre con la polizia che reprime la gente in Colombia, si fa la pratica insieme, quindi... sopra ci stanno gli Stati Uniti che regalano pistole... tanquetas, certo. No? Sicuramente in Colombia, diciamo, questo ormai è materiale storico. E quindi non so se vogliamo mettere un'altra musichetta. Sì, io direi di sì, perché comunque ci resta parlare, dicevo, già abbiamo anticipato del territorio, e dopo ci metteremo con la Colombia, perché Marta è stata presidio, corteo, mobilitazione, manifestazione presidio. a Piazza del Popolo, poi sì. Abbiamo alcuni audio direttamente dalla Colombia, un po' altro particolari materiale. Perché come vi dico, appunto, io aspettavo del materiale da un contatto ieri che è stato alla manifestazione di Bogotà, gli audio non mi sono arrivati, io stasera gli scriverò solo se sta bene, perché per quanto mi riguarda già è molto. E quindi diciamo che, come sapete, anche chi riesce poi a mandare degli audio lo fa in una maniera che non è giornalistica, quindi vi faremo ascoltare degli audio molto amichevoli in cui anche tra le persone che parlano ci si rimpalla tra il CRIC, insomma, che è questa organizzazione, ci si rimpalla un po' la sicurezza. E comunque adesso sentiamo un po' di musica. Dai, finiamo di parlare del mitico popolo mapuche. C'è un cumbión. Un cumbión. C'è un cumbión. Si chiama Cumbia del Tren de Oriente. E dai, Mister Trombone. Ne parliamo con il nostro inviato dal quartiere di San Lorenzo. Buonasera, sì, sono qui in Via dei Volsci, dove vi posso confermare. È chiaro che non era questo, mi sembra chiaro. Ah, ritmo de cumbia. Llega el tren Oriente, se va con ritmo de cumbia. Llega el tren Oriente, se va con ritmo de cumbia. Caramanga. Finale pazzesco, devo dire, eh? De película. De película, sì, sì, sì, sì. Che altro abbiamo da dire? Insomma, diciamo che in Wall Map, insomma, forse da una parte all'altra, o comunque ne parliamo di Gulu Mapu, che ormai impariamo a usare questi termini. Mi dicevi, Victor, questa è anche una settimana molto incentrata sulle rivendicazioni ambientali. Sì, è successa una cosa che, cioè, trovo l'informazione e condivido, che il territorio nativo, diciamo, che adesso si riparte tra Argentina e Cile, per lavorare, per creare questa industria nazionale di produzione ed esportazione, inizia tanti anni fa a distruggere, per esempio, il mare con i salmoni, così. I laghi anche, comunque, e così inizia una vera e fortissima esportazione di salmone. Andate a vedere di dove viene. Chi compra questo salmone che fa un casino? Non mi risulta che in Messico mangino salmone, non mi risulta che in Perù mangino salmone. Io lo trovo qua al supermercato il salmone. Io lo trovo forse, dall'Eurospin al Carrefour, sì, quindi fino forse a mi sa che quindi forse mi una sa. Parte viene qua. Però c'è sempre scritto salmone norvegese. Infatti è vero, poche perché volte. Perché la lavorazione e la pesca sono due passi differenti. Ah, perché fanno quella. Ci sono le leggi che dicono tu cosa sì, devi scrivere. Quella mandracata. È vero. Vedo che avete imparato i termini fondamentali, la mandracata. E quindi diciamo sì, poi tra l'altro insomma parliamo di salmoni, lo avete saputo qualche tempo fa c'è stato questo mega carico di salmoni che è arrivato malato, insomma un po'. A me qualcuno mi diceva che un conto che riuscire a far allevare una batteria intensiva dei polli, che solo l'idea mi viene lo schifo nonostante io sia ancora, ahimè, onnivora e faccio autocritica, non ci vuole tanto a far ammalare dei polli messi tutti insieme schiacci, a far ammalare dei pesci ci vuole molto di più, mi dicono. E quindi significa che far arrivare, e quindi questa nave, penso forse stiamo più di una nave, penso allevamenti con questo carico di salmoni sì, malati sì, che sono dovuti essere distrutti e che guarda caso la stessa malattia poi arriva ai salmoni d'Irlanda. E allora cioè, si chiede ma come? Che l'Irlanda che contatti c'ha col Cile? Beh, sembra che ci sia stato qualcuno che ha provato a sostituire la specie, ovvero un po' come si fa adesso con la Monsanto, che dice ho fatto il grano che cresce a 4.000 metri, quindi sbraga tutto, perché qua ci sta succedendo un po' la stessa cosa. Quindi qualcuno ha tentato, probabilmente in maniera assolutamente non conforme, di sostituire il salmone cileno e invece si sono passati il batterio e pensate, è successo cioè, un casino che provoca là che dove si fanno questi allevamenti, no? Sì. Per questo la distruzione sì, dell'ecosistema. Sì, inizio con questo per dire che dopo l'organizzazione è proprio parte della comunità adesso, quindi si fa la denuncia e adesso nel lago in Coñaripe, che sarebbe il lago Calafquén, per lo sviluppo del turismo il governo cileno inizia un progetto per costruire un imbarcatero nautico nel lago. Così per fargli fare un giro? Certo, per andare sulle moto acquatiche, questa roba di ricchi. Quindi un molo? Certo, e quindi la comunità, tutte le comunità della zona, che sono tantissime, hanno iniziato questa denuncia contro lo stesso governo, diciamo così. Quindi c'è una dichiarazione di Coñaripe, però per leggere così in un altro momento, che parla di questo, di che la comunità non vuole quello sviluppo turistico per l'industria nazionale di un paese invasore, per esempio, però capisce che esiste il turismo rurale e quello si fa con la comunità così, senza intervenzione, per favore. Ma è scomodo, scusa. Quindi è scomodo. Io non posso andare sulla moto d'acqua, mi mettono sul mulo. Scusa. E come tu? Noi del primo mondo siamo fragili. No, nel senso che voglio dire, no? È chiaro che poi c'è chi è abituato, fa il turismo, che arriva, si sdraia sul lettino, si fa portare il cocktail, va sulla moto d'acqua. E che comunque, se sei furbo, e anche lavorando a furbizia, e questa veramente ben in testa dico, lavorando con le comunità tutti ci potrebbero guadagnare, prendendo anche un'idea di turismo più agreste come esiste. Cioè la questione di vendere può essere è a prescindere, sé, cioè. La questione sono gli interessi, la pochi interessi capitalistici, no? Che fanno questi interventi, come per esempio un molo in un lago che vedrà ovviamente l'arrivo di tantissima gente per il guadagno, il beneficio di pochi. Esatto. È molto chiaro e interessante quella cosa. Si potrebbe lavorare il turismo in una forma molto più curata e che preserve la naturalezza, anche comprendendo, includendo alle comunità. È solo che poi guadagnano. Le comunità raccontano, capito? Le comunità poi raccontano, le comunità poi parlano, le comunità fanno memoria, le comunità sono tornate lì. Possono dimostrare un'altra forma di organizzazione. Esatto, no? Possono svelare delle verità che casomai la gente comodamente non sente, quindi è chiaro che è complicato. E sì, quindi... questo è successo in Lago Calafken, in Cuñaripe, però nel mare, nel territorio Lafken, c'è Lafken, sarebbe il mare. La parte del c'è mare, sì. Gente, quindi la gente del mare ha denunciato che un'impresa per fumigare ha contaminato la gente, proprio così, con malattie di tutto. Sì, senza chiedere nemmeno i permessi che doveva chiedere legalmente, no? È stata una fumigazione così. Sì, questo ricordiamo che le fumigazioni vengono fatte per le coltivazioni, con i diserbanti, tutta una serie di cose. Le fumigazioni sono state famose, per esempio, in Colombia, quando c'era, si dicevano di dover ammazzare le coltivazioni di cocaina. Sono famose in Asia, in India. In Argentina ha fatto stragi e sta a fare ancora. In Ecuador, comunque le fumigazioni per la soia, esatto. Sono veramente un modo di usare diserbanti veramente infame, proprio perché comunque tu fai una nube e se ci sono delle comunità vicine è a seconda di come dire il vento, non è che tu la nube la tieni chiusa. Vabbè. Questo è successo il 19 di marzo di quest'anno, la linea di fumigazione sarebbe 20 km, pensa quanta fumigazione. Questo è successo. Hanno denunciato ovviamente, credo, già le malattie, cioè non certo. È che perché le hanno rovinato i coltivi, ovviamente, anche la bambini. Gente con le piaghe. Sì, questo è successo nel territorio Lafkenche Calof, dell'area nord di Porto Saavedra, in Gualmapu. E un'altra cosa che volevo tornare sul primo caso. Sul caso del lago, si sta denunciando pure che c'è stata, no, una specie di, come dire, di referendum che in realtà non considerano valido perché non hanno rispettato tante cose, perché non hanno consultato a tantissime altre comunità che stanno lì attorno a questo lago, che quindi si vedono ovviamente involucrate le conseguenze che può portare un imprendimento turistico di questo tipo, non sono state consultate, quindi si sta denunciando pure questa cosa, oltre all'intervento, oltre al non includere alle comunità ovviamente per svolgere o sviluppare qualcosa, ma che sia veramente in beneficio di tutti e soprattutto, e di nuovo questo è l'importante, sempre mi piace segnalarlo, soprattutto in rispetto dell'ambiente, no? Una cosa molto importante, e discutendo gli interessi economici, come dicevamo, perché a me quelle cose mi interessano tanto, quando non è che dicono no, ma guarda che qua il turismo può venire, la gente può venire, in rispetto della naturalezza ovviamente, in rispetto di chi ci lavora con quel tipo di turismo. Sì. Cioè non è che non si permette a nessuno venire a visitare le meraviglie naturali che c'ha il Cile dappertutto, però chi ci lavora, chi ci prende veramente cura, lì c'è una discussione per me meravigliosa, mi interessano queste cose e si mettono, dico, in discussione questi interessi economici alla pari passo che si prende cura dell'ambiente. Mo mi si è accesa una lampadina perché il mio odio purtroppo cova. Spesso e volentieri le comunità avvisano che vedono gente fare trekking in zone dove non li avevano mai visti e quindi si avvicinano a questi gruppi e spesso sono gruppi di israeliani. Allora un giorno torneremo a parlare di quella che era il progetto dello Stato di Israele. Io sono andato lì e ho visto tutti i cartelli in ebrei. Io non gli ho chiesto, è la prima volta che ne parliamo, certo. Qui quindi, perché adesso chiaramente se uno più uno ancora fa prossima puntata mi sa che gli diamo giù su questo, perché c'era proprio questo progetto di Israele anche di studiarsi il World Map, la Patagonia, come la Patagonia, sì, è vero, ecco. Sì, sì, era una delle due opzioni, giustamente. Visions. E questo che parliamo, per esempio, si impara, magari si impara nella scuola rurale, dove è vicino della comunità. Certo. Però a questa scuola rurale adesso è arrivato un pacco del Ministero dell'Educazione. Certo, perché comunque dipendono dal Ministero dell'Istruzione. Per i più piccoli, per il PCCC. Quindi, questo che è arrivato per... Materiale di studio, i libri arrivano per i più piccoli. E iniziano le vocali. Certo, importanti, la A. La E. La E. E la I. Con un esempio. Qual può essere una parola con I? Ma che davvero? Indio. Ah, ok. Così. No, pensavo un paese. Un disegno. No. È un disegno di... del Mapuche. No. Quasi, è uguale. È uguale. Sì, sì, hanno preso lo stereotipo più stereotipo che può avere, colonialista e razzista, perché dico la certo. Indio, quindi disegno un indio e l'indio diventa indio, no? Senza importare di quale etnia, di quale zona di tutta l'America, con quale cultura, diventa un indio. Un indio è un disegno che è indio. Con la B non mettono bianco, con la C non mettono caucasico e mettono una piñera, no? Una foto di piñera per far capire cos'è la C di caucasico. Quindi questa razzializzazione, no, di certi gruppi che fa chi comanda. Bellissimo materiale di studio, soprattutto per certo le comunità rurali. Sì, questo è importante perché si comunica, per l'educazione e tutto. E parlando di comunicazione, che potremmo parlare di questo la prossima volta, sì. Questo de come il controllo della produzione di comunicazione è in mano dei sionisti, per esempio. E nel Cile succede questo, che tutta la catena di televisione e radio diffusione dipende dalla istruzione di sì, parlavamo di una macchinaria di propaganda che non è fatta d'aria fritta, cioè si concretizza, si traduce sì, in certe proprietà di mezzi di comunicazione in tutto il mondo che funzionano e sono così. Ci mettiamo a parlare tra poco, mi pare, della Colombia, no? Se siete d'accordo, direi, però sono sicuro che DJ Well Mapuche ha qualcosa pronta, sì, per ascoltare. Cumbia sobre el mar. Bella, oh, così proprio, questo sempre. È proprio un classico. Ci vuole tornare ai classici. Interpretato sempre. Por la juventud. Sì, questa Valdez. È proprio la Colombia. Dai. Sì. Este es un cover de la Diego Valdés. Ballate, Se no che vi facciamo avvelenare a fare. Prima vi dovete arrabbiare e poi dovete sfogare ballando.